Allora San Moritz a quel tempo era qualcosa di più che di quanto oggi è il giro del mondo, perché San Moritz se lo sognavano poi attraverso i film di Louis Trenker, questo San Moritz era un qualche cosa. Allora, che cosa hanno scelto due ragazzi? Uno l'ho scelto io e poi vi dico il perché, il Franco Wagmeister, e mentre Aurelio Nordio è stato scelto perché era non per colpa sua, e molte ragazze, era così bello ed era molto corteggiato dalle ragazze. E allora molti fidanzati si vedevano che la loro ragazza andava con Aurelio e dice dobbiamo assolutamente dargli una lezione. Lui era impiegato della prefettura. Praticamente arriva questa lettera e si estraggono i due nomi già scelti all'Hotel Città in un ballo. Questi qua si preparano e dovevano andare a San Moritz, però non avevano la macchina e non potevano andare per Merano, dovevano andare giù, giù in Lombardia e poi dall'altra parte. Allora il Franco Pasquali si offre, dice, io ho la macchina, vengo anch'io a mie spese. E loro partono la mattina. Disgrazia volle che la notte è nevicata. Noi eravamo tutti al nostro bar, che era il Nazionale, che di fronte al Tyner, lì, adesso si chiama Bristol, non so come si chiama. Ecco, eravamo tutti quanti avviliti, beati voi che andate a San Moritz, eccetera, eccetera. Loro sono partiti e quando sono arrivati a San Maurizio, noi nel frattempo in bicicletta siamo andati giù con i cartelli benvenuti a San Moritz e loro per mesi e mesi non potevano andare in giro, tutti quanti li indicavano, sono quelli lì. Addirittura, il Nordio che era impiegato della prefettura, quando è andato a chiedere il permesso al prefetto, il prefetto gli ha detto no. Un mio impiegato che rappresenta gli universitari italiani in Svizzera, io gli do le ferie premio. E quindi quando è tornato, immagino cosa sia successo lì in sede. E qui siamo a Riva del Garda sempre. E Nordio si è vendicato dopo con Riva del Garda. Ma il primo scherzo che ha fatto a Bolzano lo feci io perché, e questo è Aurelio Nordio, sempre a Riva del Garda. Cosa era accaduto? Che io, troppo impegnato con l'associazione, mi ero dimenticato che ero iscritto all'università. E ogni volta che andavo a casa mi chiedevano quando vai all'università? E io dicevo lunedì. Un sabato sera c'era un ballo a casa di una nostra amica. E io sono andato a casa per fare mangiare e scappare via. E mia madre mi dice, tuo padre è alla stazione col bagaglio, ha fatto già il biglietto, per cui vai alla stazione e vai all'università. In effetti mi si era stancato mio padre di settimane in settimane, dice adesso lo aggiusto io. Io faccio un salto lì dove c'era il ballo, il treno partiva alle 10. Vado lì e dico. Ed ero lì tutto abbacchiato perché gli altri si divertivano e a un certo momento tutte le ragazze, ma cos'hai? Cosa ti succede? Ho sbottato, dico, mi devo sposare e sono scappato via. Passano 2 o 3 mesi e torno a Bolzano. Bolzano allora era un paese. Tutti a chiedermi quando ti sposi? Quando ti sposi? Io mi ero dimenticato. Poi vedo un amico e dico, ma cos'è questa storia? Ma come tu hai detto che ti sposa? Ostrighetti, allora bisogna fare qualcosa. Eravamo sbollettati, per fortuna arriva, eravamo alla vigilia di Natale e arriva su al Passo Pordoi, arriva l'Istituto Gonzaga. Noi siamo andati a fare i lavapiatti per guadagnarci qualche cosa. Con quello che abbiamo guadagnato abbiamo comprato i cartoncini per mandare le partecipazioni. Un nostro amico che lavorava alla Tesia al Dolomiten ce l'ha stampati e io ho detto che i miei genitori Terroni mi avevano sposato da bambino con un'ereditiera americana. Per cui la partecipazione Michele Lettieri è la Mary Deritis Eklund California, californiana. Tutti a crederci, anche perché ero riuscito a corrompere Don Vinotti e mi ha messo nella bacheca del Duomo le pubblicazioni. Allora tutti ci hanno creduto, se non che non avevamo una lira. Mio padre, arrivano i regali a casa e mio padre dice cosa sono questi regali? Ma dico si sbagliano. Vado da Senubre Franchi e dico tenetevi i regali, tenetevi voi perché noi, perché è meglio che li tenete voi. Poi vengo io e facciamo i conti. Poi sono andato lì. Questo regalo, allora costavano 2-3 mila lire i regali. Queste 2 mila lire, mi date 1000 lire e vi tenete il regalo. E quindi abbiamo fatto i soldi per i due taxi che devono portare gli sposi al Duomo e poi un rinfresco che abbiamo fatto al bar. Fatto sta che quando andiamo, prima parte la sposa, tutti gli invitati erano davanti, allora c'era il Banco di Roma, adesso c'è l'UPIM, erano davanti all'UPIM, quando hanno visto la sposa, ah no, prima sono arrivato io, poi quando è arrivata la sposa, che era un uomo vestito da sposa, quando l'hanno visto, dice, Madonna che brutta questa qua, povero Michele, che era veramente brutta. Questo qui non era lui che doveva fare il mio sposo, era una ragazza, ma la sera prima sono andato a casa di questa ragazza per avevo noleggiato il vestito da sposa, perché era il periodo di carnevale, io mi sono sposato il 27 gennaio del 51 e sono andato a casa loro, tutti piangevano. Osta, dico, dove la vado a trovare una sposa per domani? A un certo momento esce il medico, e chi era il medico? La mia futura sposa, era uno che faceva abusivamente il medico a Bolzano, l'ho ricattato, ho detto tu domani ti vesti da sposa e quindi lui è venuto al Duomo e ci siamo sposati. Andiamo avanti, ah ecco qua, la sposa sviene davanti al Duomo e poi scappiamo via, e dietro c'è Bonoma, qui c'è il notaio Tommaso e testimoni, e l'altro testimone era il Pierino Longhi, il notaio. E qui la sposa, si vedevano anche prima, ecco qui quando eravamo al Pordoi, Aldo Migliucci, sì, Aldo Migliucci, poi Bianconi, Guido Spada, e l'unico sopravvissuto è sottoscritto, purtroppo. Ecco, guardate la sposa. Come si chiamava? Mario, non si dice Mario. Mario. Vediamo se si vedono le scarpe, perché le scarpe, c'ha le scarpe numero 42, no? Qua ci sono tutti gli invitati. Qua si vede l'Adriana Pasquali, la senatrice, in seconda posizione, e poi Franco Wagmeister, quello che è stato buggerato a San Moritz, la mia sposa, Anna Lupi, la Movic, quella concertista molto brava, e lo sposo, sottoscritto, Pippo Dellai, e poi basta. Ah, ci sono i nomi sotto. Lettieri Deritis. No, hanno sbagliato, 52, 51. Andiamo. Volevo fare le nozze d'oro, non sono riuscito a trovare mia moglie. Perché avevo prenotato addirittura il Palazzo Ducale. Volevo fare, non avevo detto che volevo fare le nozze d'oro, avevo detto per altri motivi, no? Ma purtroppo non sono più riuscito a trovarla. Ecco, sono andato in America dal mio amico... dal mio amico Reagan, per vedere se mi aiutava a trovare la mia sposa, no? Questa è una foto, questa è sul cartone, no? Fanno le foto, questa fotografia è sul cartone. Chiunque va in America e vuol farsi la fotografia accanto al presidente, gliela fanno. Ma Ah, questa è la famosa partecipazione. Pasquale Carolino De Ritis, Eklund, California. 27 euro, l'invito è strettamente personale. Praticamente gli inviti li mandai alla Bolzano Bene, che neanche li conosceva. Loro sono stati quasi costretti a mandare un regalo, perché a chi li potevamo mandare, no? Il matrimonio fasullo, Riviera Americana. Tutta la Bolzano Bene fu invitata, e infatti è così, eh. Come? È svenuto davvero? Fece finta. Ah. È svenuto davvero. Era arrivato al punto di farci assumere all'ospedale di Cleves come medico. Poi andò ancora nel circo come veterinario, venne licenziato anche. Qui al Pordoi, qui si vede la Elsa David, la moglie di Mitolo, e Andrea, poi Spada, la Lupi, Aldo Migliucci, Pierino David, è sottoscritto. Va bene, ma comunque andiamo avanti col discorso mentre guardate le foto. Sì, c'è Dario Casna anche. Praticamente quei pochi ragazzi che sono rimasti a Bolzano, che più o meno li vedete qua, io li ho denominati italienische Dableiber, cioè gli italiani che sono sempre rimasti a Bolzano anche durante la guerra. Perché durante la guerra a Bolzano siamo rimasti sì e no, ma non più di 100 studenti, tutti liberi professionisti attualmente, perché e tutti chi ha la Lancia, chi ha le Montecatini, chi ha le acciaierie. E per cui nel dopoguerra abbiamo fondato un'associazione. Questa associazione aveva una bellissima sede, erano i parapetti del Talvera in pietra, vicino all'edicola Ronali, all'inizio del Parco Petrarca. Ci siamo messi lì. Ma voi non credete, nel giro di pochi mesi avevamo più di 300-400 iscritti. Tutti volevano iscriversi perché tutti erano alla ricerca o di un amico o di un parente. Noi praticamente eravamo diventati quasi un ufficio di ricerca e si iscrissero a questa associazione. A un certo momento vennero due avvocati, bisogna dare una veste legale. Detta a noi la veste legale, noi che avevamo le toppe nei gomiti, sulle ginocchia e sul diretro, noi conoscevamo solo quei vestiti, la veste legale, non sapevamo che cosa fosse, ma praticamente questi ci trasformano, questa nostra associazione che già c'era, in associazione che si chiamava Associazione Giovanile Alto Tesina e poi anche in lingua tedesca. Recentemente mi è arrivato un libro a casa. Puoi tenere un attimo? Mi capitano delle cose straordinarie. La Retia, che è una casa editrice, ha fatto 5 volumi sulla storia di Bolzano. 20 anni per 20 anni, prima i primi 20 anni, poi dal 20 al 40, poi dal 40 al 60, da 60 a 80, 80 a 100. Mi mandano questo libro dal 40 al 60. Così c'entro io. Allora telefono, dico, guardate, vi siete sbagliati. No, lo legga. Ma lo legga, io non conosco il tedesco, perché è in lingua tedesca. E si trovi qualcuno che... intanto si guardi l'indice, vado a vedere l'indice, la B viene Berloffa, vado per vedere Berloffa, gli ha dedicato una riga, a tutti gli onorevoli a Bolzano gli ha dedicato una riga, vado per vedere Lettieri una pagina, e che cosa ho fatto? Questo libro, uno storico tedesco, dice che l'unico fenomeno di convivenza in Alto Adige è stato quello operato dall'ingegner Lettieri, che ha formato un'associazione di 2.500 iscritti, estesa in tutta la provincia, italiani e tedeschi, e sono iniziati i primi matrimoni misti. L'unico che è stato scarognato a sposarsi un uomo sono stato io, gli altri... Perché sono nati i matrimoni misti? Perché quando organizzavamo i balli, le ragazze italiane non potevano venire perché i genitori non le lasciavano uscire di sera. Quelle di lingua tedesca venivano e sono nati i primi, le prime conoscenze, i primi amori e sono nati i primi matrimoni. Praticamente sono stato un po', non dico l'ideatore di questi matrimoni e io sono rimasto escluso, sono veramente scarognato, veramente. Ecco, questo è il processo ai fagioli, questa è la giuria, il primo è Zadra, il secondo è Tabarelli, che è un grosso personaggio, è quello che ha organizzato per televisione, si è formato da noi, ha organizzato per televisione le Olimpiadi del 60 a Roma, non so se erano Olimpiadi o campionati, erano una cosa sportiva, Olimpiadi, non lo so, nel 60. Poi viene Franco Bonatta, poi viene Gianni Palvarini, Ingegner Tavella, Silvio Migliucci, dietro mi sembra, non lo so, questo è De Giorgis, ah lì c'è scritto, va bene, no, qui dietro c'è Fossi forse dietro, è Fossi questo qua? Boh, andiamo avanti. Praticamente questa associazione aveva 50 circoli diffusi in tutta la provincia, ma eravamo diventati importanti, perché dovunque andavo, Madonna santa, perché non sapevamo noi che cavolo, noi cresciuti durante il fascismo, non sapevamo che cavolo era questa democrazia, che cos'era la democrazia. I vecchietti volponi sapevano che questo carniere aveva 2500 ragazzi più o meno votanti, oppure che potevano influenzare i genitori, essendo loro, avendo loro studiati molte volte i genitori, no, potevano influenzare anche i genitori, e ci facevano la corte i partiti più importanti. Mi riferisco al Partito Comunista e al Partito Democristiano. Ma ci facevano punti d'oro, cosa vuoi? Addirittura mi volevano far candidare. Io, ma siete matti, avrei perso la mia libertà eventualmente, ma neanche, non ci pensavo neanche lontanamente, ma anche loro non so se parlavano seriamente, a loro interessava mettere le mani, e mentre i comunisti agirono un po' non tanto bene, io fui sequestrato e mi fecero un sequestro di persona, iscrissero un sacco di giovani e anche anziani, e volevano impossessarsi dell'associazione e ci chiamavano fascisti a noi. Ma come fascisti? Noi eravamo proprio fuori da ogni partito, ma non ci pensavamo neanche, ma loro volevano conquistarsi. Sono venuti su e hanno preso me di là e ci hanno chiuso in una stanza. È venuto a salvarmi il Mascagni, che non era ancora senatore, era iscritto al loro partito, ha capito che i suoi ragazzi facevano qualche fesseria. Io poi il giorno dopo al questore, il papà dell'ingegnere, come si chiama, quel questore che si è ammazzato, Mazzone, ecco, ho fatto una denuncia praticamente per questa. E la cosa strana, io quando i miei amici sono andati nella Repubblica Sociale, io dovevo andare assolutamente anch'io, perché non potevo tradire la loro amicizia. Sono andato a casa e dico: papà, vado a Verona. Cosa dici? A far cosa? Vorrei andare, io volevo andare nella Repubblica Sociale, eravamo ormai tutti cresciuti nel fascismo, ci credevamo, c'è poco da fare, poi a 18 anni, 17 anni, eravamo entusiasti, no? Mio padre dice: no, tu non vai. Come non vai? È perché tuo fratello medico è a Bardia, in Cirenaica, è stato fatto prigioniero da un mese e non sappiamo niente. L'altro fratello è ad Atene e da un mese non riceviamo notizie, tu sei rimasto l'unico, fai morire tua madre di crepacuore. E io rinunciai e fui chiamato traditore da loro. Quando mi hanno sequestrato, uno di questi che è andato nella Repubblica Sociale ha detto agli altri che io ero nella Repubblica Sociale, lui era andato, io che ero il traditore invece mi ha indicato come fascista, e siamo arrivati a questo punto che uno che era nella Repubblica Sociale, diventato comunista, accusa me che ero, facevo il manovale alla Lancia, che ero stato nella Repubblica Sociale perché volevano impossessarsi dell'associazione, e purtroppo l'associazione morì e da un circolo, quello dei laureati, nacque il circolo universitario cittadino. Il circolo universitario cittadino ha dominato per circa 15 anni, ha fatto cultura, ma ha portato a Bolzano i più bei nomi della cultura e ha creato le basi per il Teatro Stabile e per il concorso Busoni, perché ha fatto venire su a Bolzano il carrozzone di Fantasio Piccoli, dove dentro c'erano Romolo Valli, tutti i grandi, Adriana Asti, ecco, dovevano stare a Bolzano per 2 o 3 giorni e poi andarsene, se non che noi ragazzini li abbiamo assicurati mangiare e dormire, perché li portavamo addirittura a dormire in casa privata gratis, fra gli iscritti trovavamo sempre qualcuno che poteva ospitarli, e loro anziché 2 o 3 giorni sono rimasti 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, e il carrozzone, che si chiamava così perché girava tutta l'Alta Italia, si è trasformato in Teatro Stabile. Quindi, non volendo, abbiamo messo un piccolo mattone per il Teatro Stabile, poi abbiamo aiutato i profughi giuliani, poi abbiamo aiutato tutti i militari che venivano dalla Germania, perché quando venivano dalla Germania facevano pena, me li mandava, io ero il responsabile, essendo con la fascia tricolore, un mio capo mi ha riconosciuto perché alla Lancia ero magazziniere, tu farai il magazziniere, e io facevo il magazziniere di tutto il materiale sequestrato a Bolzano e me lo portavano dove, nell'attuale caserma dei carabinieri, dove c'era in via Dante, dove c'era il tribunale, perché il tribunale era in città una volta, e tutta quella casa era un deposito, io ero l'unico responsabile, dormivo lì, mangiavo lì 24 ore su 24 ore, e padre Rosario mi mandava tutti questi militari che arrivavano dalla Germania, erano lo scheletro umano. Proprio a vederli si svestivano, io gli davo i vestiti borghesi e se ne andavano. Quando i miei superiori sono venuti a sapere che io vestivo non solo questi militari, ma anche i fuggiaschi fascisti che erano riparati a Bolzano, e addirittura anche i tedeschi che non erano riusciti a scappare, a me non fregava niente chi è in divisa di una maniera o nell'altra. Io non vedevo l'ora che questa gente andasse a casa con i loro familiari. Non guardavo alla carta e mi diceva se era fascista, se era un antifascista. A me non ti... Io aiutavo tutti quelli che venivano. Si era sparsa la voce e a un certo momento mi hanno un po' legnato perché io aiutavo tutti, ma a me sembrava logico, per loro no. E queste sono tante immagini, ci stiamo accavallando. E praticamente questi 15 anni che abbiamo passato col CUC sono stati meravigliosi, perché abbiamo... E qui siamo andati con la vasca da bagno. Quando si andava alle feste di matricola di Padova, dovevamo corrompere i ferrovieri, ci mettevamo molte volte nel vagone merci perché non avevamo i soldi del biglietto, no? Però ci venivano sempre incontro. Questo qua con la vasca l'abbiamo caricato in un vagone merci e siamo andati a Padova. Ecco, qui vedete tutti col saluto fascista. Siccome qui davanti ci sono alcuni che optavano per le sinistre, per prendere in giro quelli là, tutti facevano finta. Questa è l'addio al celibato di Renzino Rabbiosi. Questo è Paolo Movic. E vabbè, tutti i personaggi di allora. Siamo su da Schiffreger, che era la nostra sede serale. Eccoli qua. Il night di Appiano. Lo vedi il Fucci tu, no? Lo vedi? Queste sono foto che non vorrei annoiarvi perché sono persone che non conoscete. Io avevo un altro disco dove c'erano cose più interessanti, ma non l'ho trovato. E sono sempre gli stessi, vate pure avanti. Ecco, questi due hanno fatto un raid in Africa, uno è Bonatta e l'altro è Bonvicini. Bonatta e Bonvicini. Mentre invece forse ci sarà anche quelli che sono andati al Polo Nord. Questi sono andati in Africa, vediamo un po' se ci sono quelli del Polo Nord. Il ghiaccio c'è. Questo è il ghiaccio? Cosa non viene fuori l'immagine? È difficile. Perché abbiamo le persone. Abbiamo problemi di ambiente, problemi di orari. Così. Vogliamo vedere se c'è qualcuno che ha delle domande da fare. Proviamo a vedere. Hai bisogno di micro. C'è qualcuno delle domande da fare di ingegneri elettivi, perché sono le 7:20 e abbiamo ancora un quarto d'ora, 20 minuti di tempo. Peccato che non sono venute fuori quelle del GUF. Il GUF è Gioventù Universitaria Fascista, quella degli anni 38-39. No, 38-39. Questi li abbiamo già fatti. Le ha fatte? Le abbiamo già viste prima. No, ma queste non sono del tempo. Il GUF? Non l'ho vista. Ah, io non... C'è scritto... Sono molto più recenti. Questa è recentissima, è legata alla guerra, agli anni 50. C'è scritto lì GUF. Questi sono quelli di prima, li abbiamo già visti. Niente, io ci sarebbero tante cose da dire, cosa vuole adesso in mezz'ora. Comunque un quadro generale ve l'ho dato e queste due associazioni vi dico, credo che hanno formato molti ragazzi, ma la cosa più importante, mi ero dimenticato, che abbiamo fatto, abbiamo inventato i campionati studenteschi. Lì è stato da ridere, provinciali studenteschi li abbiamo inventati noi, su richiesta del provveditore. I professori di ginnastica, che poi erano i nostri professori, erano arrabbiati, ma d'altronde il provveditore sapeva che noi avevamo 2500 ragazzi e noi avevamo anche, eravamo organizzati, e quindi abbiamo gli avvinti, l'ITC, allora erano geometri e ragionieri assieme, il primo campionato l'hanno vinto quelli dei ragionieri geometri. E abbiamo fatto, ma la cosa più bella che abbiamo fatto, i corsi di recupero, perché durante la guerra tutti hanno perso 2 anni di scuola. Per cui abbiamo convinto i vecchietti che venivano dalla guerra, che iniziavano la professione, io gli avevo promesso 300 lire all'ora, che non le hanno mai viste, perché fare lezioni. Quindi ho fatto i corsi, e questo storico tedesco mi fa gli elogi, perché ho fatto i corsi in lingua italiana e in lingua tedesca. Una cosa strana, noi che eravamo vissuti durante il fascismo avevamo già una visione, non sapevamo che cosa fosse la democrazia, eravamo dei democratici senza volerlo e senza saperlo, perché abbiamo fatto i corsi di lingua italiana e di lingua tedesca per recuperare gli anni perduti. E per convincerli a venire ai corsi dovevo farli entrare gratis al ballo, perché nessuno voleva riprendere gli studi. Dovevamo anche combattere per farli iscrivere, e ne abbiamo salvati circa 100-150 sicuramente, universitari e tutti i professori, ma di un certo livello, alla fine hanno capito che non prendevano una lira e si sono rassegnati. Abbiamo pagato. Ti volevo salutare, devo andare. Devi salutarmi. sì. Offrimi da bere invece di salutare. Domani. Ciao. Scusate un po', io non sono un conferenziere. Abbiamo fatto una chiacchierata e tutto finisce lì. E la prossima volta mi organizzo meglio, perché do delle foto più appropriate al... Perché il primo disco che mi è capitato l'ho dato, ma... Abbiamo parlato di argomenti più piacevoli, no? Invece che dei bombardamenti, della guerra, almeno si è parlato di cose... Cosa vuoi, ne parliamo. Io ho tante cose a casa che non posso muovermi. Per fortuna non sono sposato, sennò la moglie mi caccerebbe a calci nel sedere. Io ho una sedia dove sedermi. Su ogni sedia c'è qualche cosa. Perché se metto la cosa in ordine, li metto a qualche parte, non la trovo più. Mi dimentico dove l'ho messa. In alcune le